tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Apriamo con ilmessaggero.it dell'8 novembre 2020. Catechista romano della parrocchia Santa Rita da Cascia, rinviato a giudizio per stupro contro un adolescente. Quindi pericolo clericale. Sempre sui preti pedofili, la Repubblica dell'8 novembre 2020, chiamatemi zio Ted, gli abusi del cardinale che ha mentito ai papi. Il dossier sull'ex cardinale McCarrick, smentite le accuse di Viganò a Francesco. I vescovi polacchi, si indaghi sul ruolo del segretario di Wojtyla. In pratica l'articolo, oltre al prete pedofilo cardinale McCarrick, parla anche del segretario di Wojtyla, Don Stanislao, che avrebbe coperto casi di pedofilia. Insomma, i preti non cambieranno mai. Affarismo Vaticano, bonifici alla dama da presunta amante del cardinal Becciu, indagato anche lo stesso, la procura Marogna deve restare in cella dal giorno del 29 ottobre, affarismo Vaticano. E sempre su questo caso la manager torna libera dopo 17 giorni al carcere di San Vittore per delle colossali ruberie connesse agli affari del Vaticano. Sulla laicità dello Stato segnalo un'interessante foto apparsa sul Corriere della Sera dell'11 novembre. Nel 2016 l'attuale presidente, che verrà insediato fra poco, degli Stati Uniti, Joe Biden, era andato in Vaticano, essendo lui cattolico. Notare che nella foto risulta che non si inchina e non bacia le mani al Papa, al contrario di quel che fece Berlusconi, il quale si inchinò e baciò le mani al Papa. Non parliamo poi del Presidente della Repubblica Gronchi, che addirittura si inginocchiò. Dal mio archivio, sempre sulla laicità, da Repubblica del 2004. Croce al Quirinale. Fu il Vaticano a mettere il veto. Eleggere croce alla Presidenza della Repubblica, scrive uno storico famoso, significa affermare a chiare lettere che l'Italia repubblicana nasceva sotto il segno della tradizione liberale anticattolica. Quindi il Vaticano mise un veto contro l'elezione di Croce. Quindi l'Italia, insomma, dipende dal Vaticano. Lottiamo contro le ingerenze del Vaticano. Sul clerico nazismo, da marzo 2020 il Vaticano apre agli studiosi gli archivi di Papa Pio XII, il noto filo nazista, e segnala un video in francese sul sito dell'École francese di Roma a questo proposito. Sui crimini indiretti del Vaticano, la mancanza dell'educazione sessuale nelle scuole, la mancanza di consultori, ecco il disastro. A 17 anni partorisce e getta il suo bimbo dalla finestra di casa. È successo a Trapani. Un detto anticlericale interessante dal mio archivio, certa dottoressa Maria Socorro Gutierrez del Nicaragua, disse: il Vaticano non è solo un potere politico ed economico in tutto il mondo, ma un potere che condiziona le coscienze e quindi contro la libertà. Vittorie anticlericali in Nuova Zelanda, ce lo dice il giorno del 31 ottobre 2020, sia l'eutanasia in Nuova Zelanda, con ben il 65% hanno vinto i favorevoli, sconfitta del clero. Segnalo sul sito Chiasso TV, che si può ricevere ovviamente, è un sito web in tutta Italia, 8 appuntamenti con l'Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori. Vittoria anticlericale a Venezia. Cosa è successo? Chiude per sempre il convento delle Canossiane a Cannaregio per mancanza di vocazioni e rischia di diventare un albergo. Sempre dal mio archivio di crimini della Chiesa, diretti e indiretti, pugnalato nel Palazzo della Curia di Firenze. Siamo al Corriere della Sera del 1995. Anziano assassinato in un negozio curiale. E il primo a scoprirlo un prete. Ma Sempre sulle notizie varie abbiamo dal Corriere della Sera del 12 novembre che a Napoli uno dei migliori licei è il liceo Giordano Bruno, così pure a Torino uno dei migliori licei elencati in questo articolo è il liceo Giordano Bruno. Ricordiamo il calendario anticlericale 2021 che è già in distribuzione. Chi ne volesse può mandare la mail a info@sicilialibertaria.it con sconti, sconto quantità. Costo 7 euro, ma c'è lo sconto del 30% oltre i 5 calendari. Ricordiamo anche gli adesivi anticlericali contro il Papa, contro l'ora di religione, reperibili al ciclo Giordano Bruno al 331-730-2874. Saluti a tutti. Prima di morir nel fango della via, imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stanno le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Francia allerta sulla ghigliottina, tronca il capo a chi punirla vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucila Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic ognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Finché siam gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popol trucidar. Sbirri non ridite se la dinamite voi scrociar udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. Chiodalo bene, chiodalo forte, che non ci viene più giù. Vieni su Monte Calvario.